Noi andremo a Verona, un bel giorno vedrai, nella bella Verona di Giulietta e Romeo. Ci fermeremo là, ai piedi del balcone, anonimi fra tanti che ci commuoverà. Noi andremo a Verona, un bel giorno vedrai, nella terra promessa degli amori immortali, dove dolce morir pur di essere fedeli, ed è un atto di gioia dare tutto di sé. Un giorno sarò ricco ed io farò follie, no, lasciami finire, so chiudi gli occhi, sì. Seguiremo le strade di antiche nostalgie, incontro alla città che non ho visto mai. Noi andremo a Verona, un bel giorno vedrai, io con te lotterò contro qualunque cosa. A Verona verrai, nel tuo viaggio di sposa. A Verona sarò felice accanto a te. Ma poi tu hai fatto vela incontro ad un miraggio, in rotta verso l'oro dove non lo so. Disfatte le valigie, ho rinunciato al viaggio, e al porto dei miei sogni io non approderò. Andremo a Verona, un bel giorno vedrai, ma Verona è laggiù, lontana chissà quanto, più lontana che mai, dietro un velo di pianto, ora che non avrò